matrona dov'è? Ma matrona che fa? Ma matrona che dice? Ogni giovedì dalle 12 alle 13. Ma matrona, ma matrona. Musica, parole, racconti, favole. Che cos'è una colonna sonora? La colonna sonora è il suono di un'opera composta da immagini e da suono. Eccoci di nuovo, scusate, abbiamo avuto problemi tecnici. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Oggi Mamma Trona parlerà di colonne sonore, di film che ci sono piaciuti e che abbiamo deciso di iniziare ovviamente con Star Wars. Che cos'è la colonna sonora? È il suono di un'opera composta da immagini e da suono. E quindi è l'insieme della voce, della musica e dei rumori. La prima volta che si registrarono delle musiche che vennero utilizzate specificatamente per una pellicola cinematografica è nel 1916 con Victor Scherzinger, spero si pronunci in questa maniera, e però in realtà diventerà una consuetudine negli anni 30 e quindi adesso passiamo alla prossima canzone, Surprise. E questa è la musica della scena iniziale. Questa è la musica della scena iniziale del film Mediterraneo di Salvatores del 1991 e dedichiamo questa canzone a tutte le donne e gli uomini che stanno lottando sulle sponde del Mediterraneo contro questi stati fascisti. Un gruppo di uomini presi in quella, superstiti di battaglie perdute, sbandati di reggimenti sfasciati. Un plotone di richiamati come me. E adesso sentiamo invece una scena celeberrima del film Le Iene di Quentin Tarantino, che dedichiamo a tutte le guardie all'ascolto, qualora ci fossero, visto che appunto è la scena del taglio dell'orecchio. Non me ne frega un bene amato cazzo di quello che sai, di quello che non sai. Tanto ti torturo lo stesso. Comunque sia, non per avere informazioni. Il fatto è che mi diverte torturare uno sbirro. Puoi dire quello che vuoi, tanto non mi fa nessun effetto. Tutto quello che puoi fare è invocare una morte rapida. Cosa che tanto non otterrai. Oddio. Tu ascolti mai i Super Sound degli anni 70 di Kay Billy? È il mio programma preferito. Joe Egan e Jerry Rafferty erano i componenti del duo Steeler's Wheel quando nell'aprile del 74 incisero questo pezzo un po' giovanile di spiccata influenza dylaniana, attestandosi al quinto posto. Qui è sempre Kay Billy col super sound degli anni 70. I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Guess I'm stuck. And I'm wondering how it is. Stop it. Te è stato bello come lo è stato per me. Pronto, mi senti? Non ti muovere, torno subito. Contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara. gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Questa nella versione degli After Hours era contenuta in Lavorare con lentezza. E ora, come se fossimo a un toga party, Shout di Lloyd Williams, nel film appunto Animal House, in cui John Belushi si beve addirittura una bottiglia intera di Jack Daniels. In un unico sorso, veramente. You know you make me wanna shout, kick my heels up and shout, throw my hands up and shout, throw my head back and shout. Come on now, shout. Don't forget to say you will. Don't forget to say yeah, yeah, yeah, yeah. Say you will. Say it right now, baby. Say you will. Come on, come on. Say you will. Say that you will. Say you will. Say that you love me. Say that you need me. Say that you want me. Say you wanna please me. Say come on now. Say come on now. Say come on now. Say I still remember. Shout. Yeah, yeah. Shout. Now wait a minute. You know you make me wanna shout. Lift my head up and shout. Throw my hands back and shout. Come on now, shout. Come on now, shout. Come on now, shout. Come on now, shout. Take it easy, shout. Take it easy, shout. Take it easy, shout. Take it easy, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit shout a little bit softer now. Shout a little bit softer now. Shout a little bit softer now. Shout a little bit softer now. Shout a little bit louder now. Shout a little bit louder now. Shout a little bit louder now. Shout a little bit louder now. Shout a little bit louder now. Shout a little bit louder now. Shout. Buongiorno, per favore vorrei parlare con padre Michael Spinetti. Mo guardo si è rientrato. Nonna, no, mo guardo si è rientrato. Adesso guardo se è rientrato. Adesso guardo se è rientrato. Oh, nonna, in italiano devi parlare, non in romanesco, se no non ci credono. Te posso dire una cosa in romanesco? Ma non staremo a fare una cazzata? Nonna, d'altro canto, qua se non mi invento qualche cosa, se non mi faccio di una fantasia, qua non succede mai niente, non succede. Ma se andiamo a passare un guaio prossimo, ma come famo? Ma che famo? Pronto? Mo guardo se hai rientrato. Come? Mo guardo? L'ho detto a romanesco. Aspetta, mo dico in italiano. Parla educata. Adesso guardo se hai rientrato. Sto fio de una mignotta. Ma che figura mi fa? Allora, mi è scappata. Fio che la mignotta mi entra sempre dalla finestra. E insisti, sa? Pronto? Sì, buongiorno, come va? Come va, carissimo? Sì. Come va? Finché Dio ci dà salute, finché Dio ci dà la grazia e di resistere va tutto bene. bambina, donna vedrai, bambina se lo sai, meravigliosa, stramaliziosa, vieni e vedrai che cosa sentirai, una donna lo sa, sa già come ogni uomo, sa come si fa, una donna non ha più rispetto di te, è sicura di sé. E questa era Acqua e Sapone degli Stadio, dal film appunto Acqua e Sapone di Carlo Verdone dell'83. Adesso facciamo un salto dall'Italia a, all'Asia, e sentiamo una un pezzo di, che si chiama Summer di Joe Hisaishi, nel film di Takashi Kitano L'estate di Kikujiro. Takashi parla più di tutti. Thank you. E ora ritorniamo in Italia con il film Il Divo di Paolo Sorrentino e ci ascoltiamo dei Cassius Tup Tup. A seguire ci sentiamo un passo da Arancia Meccanica che ha una colonna sonora particolarissima in quanto comunque riprende tutti i passi di musica alta, diciamo, quindi classica. In particolare noi sentiremo l'ouverture di Guglielmo Tell di Rossini, ma vengono rielaborate a livello di sintetizzazione da Wendy Carlos, all'anagrafe Walter Carlos, nel 1971, appunto l'anno d'esordio di Arancia Meccanica. La dimensione dominante della colonna sonora è lo sbeffeggiamento e il sarcasmo, l'irrisione e appunto una riflessione sulla musica alta che può essere anche veicolo comunque di una socialità essenzialmente malata, come sappiamo benissimo dal film, per chi l'ha visto. Ma al tempo stesso abbiamo il fatto che comunque sia rimasto impresso in quasi tutti solo Singing in the Rain, quindi forse è anche un po' un fallimento di Kubrick questo. E per quanto riguarda sempre la musica di Kubrick, altri film hanno avuto un impatto notevole. Hanno avuto un impatto notevole sul pubblico anche a livello di musica classica, ad esempio, come possiamo ricordare, Odissea nello spazio o Barry Lyndon. Thank you. passare alla scena dell'orgia, perché comunque è meglio ricordare le cose positive del film piuttosto che altre. Ed ora sentiamo Le conseguenze dell'amore, è un altro film di Paolo Sorrentino. Di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni. Io ne faccio parte, da 10 anni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni. Il motivo è molto semplice. Chi soffre di insonnia ha un'unica ossessione: addormentarsi. Questi sono i Lalipuna. Thank you. what's happening. Night clubbing, we're night clubbing, we're an ice machine. We see people, brand new people, there's something to see. Night clubbing, we're night clubbing, oh, isn't it wild? Ovviamente è Hip Hop Night Clubbing per Trainspotting. Suoni ci insegnò ad amare e rispettare il Servizio Sanitario Nazionale, perché era la fonte di quasi tutta la nostra roba. Rubavamo farmaci, ricette, o le compravamo, vendevamo, scambiavamo, falsificavamo, fotocopiavamo. O scambiavamo droghe con le vittime del cancro, gli alcolizzati, i vecchi pensionati, i malati di AIDS, gli epilettici e le casalinghe frustrate. Prendevamo morfina, diacetilmorfina, ciclozina, codeina, temazepam, nitrazepam, fenobarbitale, amobarbitale, propoxifene, metadone, nalbufina, petedina, pentazocina, buprenorfina, destromoramide, clormetiazolo. Le strade schiumano di droghe contro il dolore e l'infelicità. Noi le prendevamo tutte. Ci saremmo sparati la vitamina C se l'avessero dichiarata illegale. E abbiamo appena sentito due pezzi, uno di Squarepusher Thumbib che ritroviamo in Lost in Translation e quest'ultimo Ariel di Aphex Twin che ritroviamo in Marina Antonietta, che sono due film della regista Sofia Coppola, e, di cui non so siamo particolarmente film, ma sicuramente ci sono sempre colonne sonore che spaccano. E adesso invece passiamo a Stand By Me, che è tratto dal film omonimo, che anzi ha preso il nome proprio dalla canzone, tratto da un racconto di Stephen King dal nome The Body. E adesso passiamo a sentirla. Questa è la versione di Ben King. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, just as long as you stand by me. E ora The Letter, una canzone dei Box Tops che si trova sia nella colonna sonora del film Son en Allée, sia nella colonna sonora del film I Love Radio Rock, che è un film che appunto sarebbe anche carino su una radio libera, ma che comunque ricordiamo più che per la trama, per la colonna sonora. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. Oh, my baby, just don't put me a little. Oh, my baby, just don't put me a little. E adesso ci ascoltiamo Anna Magnani in Mamma Roma, che è un film del 62 diretto da Pierpaolo Pasolini e appunto interpretato dalla stessa Anna Magnani. Via gatto! Malla malla Mamma Roma! Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria. E se io dico tutto rovino sta compagnia. Carmine, battete a te che sta forte ancora. Fatto nero, Carmine. Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna. E invece in petto schiatti dalla rabbia. Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente. È meglio che non veda e che non senta. Fior de cucuzza, na donna per sti baffi andava pazza. E adesso che la persi ce va in puzza. Fiore de me. Io mi son liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. E adesso sentiamo invece Rendezvous, che è un pezzo che proviene dal film di animazione Appuntamento al Belleville del 2003, e in cui ci sono pochi dialoghi e la maggior parte della storia è raccontata tramite pantomima. Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de belle vie. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de belle vie. Allez les filles, allez. Rendez-vous, ma gorge est de bien. Pour tout cas, ma gorge est de bien. Pour faire des soins, j'ai mal. Adesso ci sentiamo una canzone tratta dal film We Want Sex di Israelites di Desmond Dekker, e film che potete peraltro vedere oggi al film che potete oggi vedere nell'ambito dell'iniziativa Precariopolis presso il DAMS di Roma 3, e nell'ambito dell'iniziativa appunto che si sta svolgendo da due giorni e che vedrà a seguire la presentazione dei risultati del laboratorio di mappatura. Un vecchio magazzino da usare come deposito, una piazza senza illuminazione da usare come punto d'incontro, un giardino in cui scomparire, un'università da occupare per scambiare sguardi complici, un flusso da spegnere, sovraccaricare, sabotare, un edificio abbandonato da trasformare in una comune, un dispositivo da disattivare. Insomma, nella metropoli il possibile non manca, occorre solo cambiare prospettiva, uscire dalla routine dell'attivismo per muoversi con naturalezza su terreni e territori che sentiamo ormai troppo distanti, un riavvicinamento che parte da una pratica facile e riproducibile. La mappa permette di conoscere il territorio su cui combatte, aumenta la possibilità di vincere. Mappare la metropoli per individuare quello che ci serve e come procurarcelo, ma non solo. Mappare la metropoli per capire come muoversi nelle sue pieghe, negli spazi non ancora strutturati, nelle sue ferite, negli spazi di possibile, del possibile che la sua organizzazione immancabilmente genera. E non è questione di urbanistica, la posta in gioco è la vita stessa. A seguire, cena dei tre continenti preparata dagli e dalle occupanti di Porto Fluviale e serata reggae con sound di diversi. L'iniziativa si svolge appunto al DAMS di Roma 3 in via Ostiense 183. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite. Wipe on my kids, step back up and leave me. Darling, she said I was yours to receive. Oh, me Israelite. My tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, the Israelite. After a storm, there must be a calm. If you catch me in a palm, you sound your alarm. Oh, the Israelite. Morning, sleeping for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, the Israelite, sir. I said my wife and my kids at the back up and I leave me. Darling, she said that was yours to receive. Oh, the Israelite, sir. Look, we chuck them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, the Israelites. After a storm, there must be a calm. If you catch me in the palm, you sound your alarm. Oh, the Israelites. Yeah. I'm a wondering, I'm working so hard. E adesso sentiamo un pezzo di Dion dal film The Wanderer del 1979, che parla di gang, e racconta la storia di alcuni italo-americani che sono cresciuti tra varie bande di New York City. Vai con The Wanderer. Romeo, Madame starà così in pena. Sei sicuro che non possiamo rincasare stanotte? Mamma, io sono stanca. Anch'io, e mi fanno male i piedi. Senti, pupa, è tardi. Le micetti sono a pezzi. Avremo camminato per 100 miglia. Io scommetto che sono più di 1000. Oh, via, tesori, state allegri. Il signor Romeo conosce un posto dove potremo passare la notte. Quanto è ancora lontano, signor Romeo? Oh, su con la vita, tigre. È proprio dietro a quel camino che vedi là. Eccolo qua. Per mio superattico monocamera non sarà il Grand Hotel, ma c'è pace, tranquillità e potrei... Oh no, a quanto pare mi sono venuti a trovare scattecatte la ganga sua. Oh, amici tuoi? Già, compagni d'infanzia, sono tutti dei veri draghi, sai? Draghi? Cos'è un drago? Beh, un drago sarebbe, insomma, non è roba per te, duchessa. Forse è meglio cercarsi un altro posto, no? Oh, no, no, no, no, no, no, vorrei vedere il tuo superattico e conoscere il tuo amico Scat-Cat. Beh, ok. Oh, Scat-Cat, sono qualcosa per la signora qui presente. Bene, bene, guarda un po', il grande Romeo è tornato a dormire. Vieni per giù, amico. D'ammazza un po' una vecchio scattecatte, come stai, eh? Buonasera, paesano. Welcome, Romeo. Duchessa, te presento il meglio jazzista del mondo. Oh, sono lusingata di incontrarla, monsieur Scat. Parimenti, duchessa. Sei un fenomeno. Lei è incantevole e la sua musica è così, così diversa, così eccitante. Non sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo. Ehi, questo gattino ha sgamato subito. Che vuol dire sgamato? Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può. Al ritmo del jazz. Giusto, samba, rumba, rockero, twisto, cia, cia, cia. Lo stesso prurito non te dà. Roba che non va. La porca rondò come il tango al fostrò. Roba rococò. Se tu li senti suonar, ti farà ricordare. L'arca di Noè, sa, sa, sa, sa, olè. Cor geste senti giovane perché hai voglia di ballare te, più forte di te. E che non può, vien anche tu saprai com'è. Che tutti quanti vogliono fare il jazz. La polca e il rondò come il tango e il vostro roba rococò. Roba che non s'usa. Se tu li senti suonare ti farà ricordare l'arca di Noè. È roba da Matusa. Ma tutti quanti vogliono fare jazz. Perché resiste così al ritmo del jazz. Perché lo provi ed anche tu saprai com'è. E tutti quanti voglio fare jazz. Forza ragazzi, facciamo crollare le paletti. Coraggio tovarich. Danno il jazz a Hong Kong, danno il tempo con il gong, questa sì che forte. E dici se buttiamo, eh? Sì, balliamo, Romeo. Fantastico, mamma, fantastico. Soffia, soldo di cacio, soffia. Ragazzi, che soffiata. E ciò è l'avvenire. Se ammaliare tu mi vuoi, prendi un ritmo lento e poi ad ogni nota dai sonorità. Mm-hmm. prendendo qualche nota in libertà. Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al nostro coro si unirà, svegliando tutta la città. E come non nominare il film Velluto Blu dell'86 diretto da David Lynch, e il titolo originale del film, Blue Velvet appunto, è tratto dalla canzone omonima di Bobby Vinton, che nel film è cantata da Isabella Rossellini in un locale notturno, lo Slow Club, ma noi sentiamo la versione di Bobby Vinton. She wore blue. Bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet. Cambiamo completamente genere con un pezzo tratto dal film Paz, tratto dai fumetti di Andrea Pazienza e ambientato nella Bologna del 77 bolognese. Ci sentiamo Eptadone degli Skiantos. Ciao. Ciao. Diana. Scusa, perché ogni tanto non fai così? Almeno i capelli ti stanno posci. Ficcateli in culo. Genere, ragazzi, genere! E sbarbo, mola a dire che sognamo la sei terra, fatto sei duro, fatto, sei fatto come un copertone. Ci facciamo? Sbarbi con un paradura. Ok, ok, nessun problema, nessun problema. Uno, due, sei, nove! Sì. gente che c'è al momento. C'è pure Massimone. Chissà che fa. Potrò più vedere un amico, no? Massimo! Massimo Massimino, detto Massimone, che abita in via Giacomo Giacomina, Bologna Bologna. Hai una canna? Ci portano a mezza sigla, porto a fare il sigla. Serio? Ed ora? Ed ora invece sentiamo la Rettore, che è stata protagonista del film Ciccia Bomba dell'82, diretto da Umberto Lanzi, in cui interpreta Miris Bigolini. Ed eccola qua con la canzone Mi è scoppiata la testa. Questo marito, il professor von Kemp, e alla sua meravigliosa scoperta, la cura dimagrante von Kemp, che ha permesso questa miracolosa trasformazione. Ecco a voi Miris Bigolin 2 mesi fa. E adesso, dopo la cura von Kemp, la nuova Miris Bigolin. Prego. Passiamo al film invece This is England del 2006 di Shane Meadows, che è ambientato nel luglio dell'83 in Inghilterra ed è una rappresentazione della cultura skinhead inglese. E di questo film ci sentiamo di Toots and the Maytals, 46 was my number. Yeah, then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. Give it. time. Give it to me three times, yeah. Give it to me four times. Before 46 was my number. Matrona Conaggi conclude e vi salutiamo con un pezzo di Nino Rota che tratto dal film La dolce vita di Fellini, che è un film del 60, un film cult. Come sempre ci risentiamo giovedì prossimo, magari forse un po' meno tempo di questa volta che abbiamo veramente sforato. E ricordiamo a tutte e tutti il numero di telefono di Radio Onda Rossa 06 49 17 50, il conto corrente postale per sottoscrivere 6180 40001, intestato a Radio Onda Rossa, via De Valci 56 00185, Roma.